gruppi folcloristici di Gorizia, di Udine, Aviano, Magnago, di Tracento, Resia, Capriva, Lucinico, per non citare che i più noti, conoscono il palcoscenico di città italiane e straniere, messaggeri di un popolo migrante ricco di poesia. Ecco il motivo del valzer. Olimbevi e tornavevi, di che svinca le tambon, alle vinghi lapitane, vendemar le stagioni. Vuole fiato lungo e gamba lesta, a differenza della mazurka, la quale meglio si addice agli anziani, che in Friuli non sanno rinunciare ai quattro salti in famiglia. Non infrequente il caso di assistere alla esibizione di coppie addirittura di vecchi, che non hanno perduto l'agilità degli anni della giovinezza. Si lavore, iribiribin si passe l'ore, iribiribin a fa l'amore. Valli di campagna, altro mondo nei confronti del nostro, valli del vecchio Friuli. Sentore di sagra paesana, gioia di merenda all'aperto, di cuori in pace. Thank you. ad una parentesi tonificante. La pieste da spoghetti si prepare un chiavin di cudumars insalate, un vodka gnus, un epertae ben fate, e mulisite talardiel zuacare. Po si fa squarta d'onghie de fantate, un dopli di nostran, e io partiare si pogni sin ombrene, e non si sgare, alle sicur che le ligrie nischiate. Tant per no piar di fin, con la gazzette, alla guine si conte qualche pote, e il bacaro nel metro dal poete. Se non si abbe, alle lustir tal note. Cheste la vite, e cheste la ricette, o Schopenhauer, o bocon di pote. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Balli di campagna. 38esima trasmissione dedicata agli emigrati. Musiche popolari anonime.